l'eco del silenzio. Un'idea di Lucia Caparrucci. Buongiorno a tutti e benvenuti all'Eco del Silenzio. Io sono Lucia Caparrucci e questo è il nostro spazio settimanale di approfondimento sul sociale. Questa settimana su Facebook, e non solo, c'è stato un tam-tam di voci, notizie, informazioni, oscuramento degli avatar e così via, a seguito della sentenza della Cassazione a proposito degli stupri di gruppo. Direi che sulla vicenda c'è stata molta disinformazione e anche molta confusione. Per prima cosa, eliminiamo gli equivoci. E poi vorrei anche provare a dare una chiave di lettura in più, fare un passo successivo. Da www.julinews.it. Lo stupro di gruppo delle leggi fatto su Facebook. Del 3 febbraio 2012. Di Antonio Rispoli. Ancora una volta, si è avuta la dimostrazione di come Facebook può passare da un sistema di pressione sui politici ad un sistema di disinformazione di massa, con uguale efficacia. L'ultimo esempio in ordine di tempo lo si è avuto ieri, dopo la diffusione della notizia riguardante una sentenza della Cassazione a proposito degli stupri di gruppo. Vediamo qual è stata la genesi di questa vicenda. Tutto inizia nel 2009, quando il governo Berlusconi, dopo due o tre casi di stupro, che ebbero un certo risalto, emanò un decreto legge, poi convertito in legge, che aveva al centro una norma che obbligava i magistrati ad usare come misura cautelare possibile per chi commetteva reati sessuali solo ed esclusivamente il carcere. Ma attenzione ad un dettaglio importante: questo non significava che tutte le persone accusate di stupro finivano in carcere. Significava che il giudice, se trovava che ci fossero gli estremi per il carcere, accordava quello, ma in caso contrario lasciava libero l'accusato. In altri termini, quelli che prima sarebbero andati agli arresti domiciliari, per esempio, con la nuova legge finivano liberi. Un'anomalia che è durata fino a quando, nella primavera del 2010, la Corte Costituzionale, investita del problema, sancì che la norma, nella parte in cui limitava la possibilità di scelta del giudice, era incostituzionale. E già allora ci furono le stesse polemiche. Si disse che i giudici avevano fatto una legge a favore degli stupratori, ma in realtà si limitava a rimettere il reato di stupro sullo stesso livello degli altri reati, restituendo ai magistrati la libertà di scelta e di valutazione su ogni singolo caso. Oggi la Cassazione ha aggiunto un'interpretazione a questa sentenza della Consulta. Ha detto che quella sentenza, che era già stata adottata in riferimento al caso di un singolo individuo accusato di stupro, vale anche per i casi in cui gli imputati siano più di uno. Si tratta di un'interpretazione non vincolante, ma di cui i giudici dovranno tenere conto. Anche qua, la sentenza non vuol dire che chi è accusato di stupro non dovrà andare in galera, ma una cosa completamente diversa. Vuol dire che il giudice dovrà scegliere, di fronte a persone accusate di stupro di gruppo, se sia più adatto il carcere, gli arresti domiciliari e così via. Ricordiamo una cosa, qui non parliamo di persone condannate per stupro, ma di persone che sono solo indagate per questo reato. Quindi le misure cautelari, in generale, vanno applicate solo se ci sono almeno una delle seguenti tre condizioni: pericolo di fuga dell'imputato, pericolo di inquinamento delle prove o pericolo di ripetizione del reato. Ma per decidere per il carcere ce n'è anche un'altra da rispettare: che non ci sia altro modo per tenere sotto controllo la persona in questione. E questa è una situazione difficile da rispettare, soprattutto quando si tratta di un ragazzo. Invece, tutti questi dettagli non sono stati spiegati sui giornali, dando l'idea, grazie anche a scelte discutibili nei titoli, che la sentenza significasse che laddove ci fosse uno stupro di gruppo, i colpevoli non vanno in galera. Niente di più falso. La pena minima per questo reato è di 6 anni e quindi non c'è modo di evitare il carcere se si viene condannati. Ma il punto è proprio questo. Un conto è il carcere per una persona che è stata condannata con sentenza definitiva, praticamente obbligatorio quando la pena supera i 3 anni. Un conto è il carcere per una persona che invece non ha subito alcun processo. In questo caso bisogna andarci cauti. Il codice prevede una certa gradualità nelle scelte da parte dei giudici. Invece su Facebook è un fiorire di link e di commenti che parlano di incentivi allo stupro e di libertà per gli stupratori. Un qualcosa che non è mai passato per la mente di nessuno dei giudici che hanno emesso la sentenza. Ma questo dipende anche da un altro brutto vizio molto diffuso, che si può sintetizzare con assoluta mancanza di senso critico. Infatti, la maggior parte delle persone, quando legge un articolo o quando sente una notizia in TV, non si chiede se sia verosimile o meno, se sia possibile o meno, l'accetta o la rifiuta a priori, magari solo per ragioni di tipo politico o ideologico. Invece nulla va preso per oro colato, tutto va valutato, pesato, diciamo così, ed è una cosa che in pochi fanno, purtroppo. L'eco del silenzio. Silenzio. Diciamo che ormai è tradizione, un po' come il panettone o il pandoro a Natale e la colomba a Pasqua. Puntualmente, nel nostro paese, almeno una volta l'anno bisogna invocare un rogo di libri o suggerire che qualcuno bruci dei testi. Questa volta farlo è stato Forza Nuova e nel suo mirino, diciamo, è finito un libro per bambini da milano.repubblica.it del 1 febbraio 2012. Forza Nuova Milano, roghi in piazza per il libro di Altan sull'omosessualità. L'organizzazione di estrema destra richiama la campagna di Goebbels e mette al bando il volume del disegnatore. La Lega Italiana Nuove Famiglie andrebbe consigliato a scuola, di Massimo Pisa. Roghi in piazza. L'invoca, con fin troppo sfacciato richiamo alla campagna contro i libri non tedeschi, lanciata da Joseph Goebbels all'indomani dell'ascesa di Hitler alla cancelleria, la sezione milanese di Forza Nuova. Lo fa, come usa, 79 anni dopo l'avanzata ideologica nazista contro l'arte degenerata e giudaica, attraverso un post su Twitter. Il bersaglio degenerato, questa volta, sono il disegnatore Marco Tullio Altan e il suo libro Piccolo Uovo, storia di un minuscolo pinguino che trova la famiglia ideale in una coppia di suoi simili omosessuali. Una favola che dallo scorso settembre ha sollevato un vespaio a Milano. L'assessore alle politiche sociali, Pier Francesco Maiorino, lo ha pubblicamente elogiato da padre fin dalla presentazione, con ovvie levate di scudi di cattolici e destre. La penultima crociata in ordine cronologico era una mozione del consigliere di zona 3, Francesco Migliarese del PDL, che ne invocava la censura preventiva. Adesso si muove l'estrema destra, per ora solo sul web. Il piccolo uovo di Altan, odiosa cultura omosessuale insegnata ai bambini, firmato FN Milano. E quella richiesta di roghi, ai dirigenti della Digos al momento, non risultano iniziative di protesta imminenti. Di nervosismo delle destre e assurdo tentativo di censura, parla Marco Volante, presidente della Lega Italiana Nuove Famiglie, che aggiunge: auspichiamo che il libretto venga acquisito come testo di educazione civica nelle scuole comunali. Ma nella Milano che ha visto appena una settimana fa i lefebriani manifestare in piazza contro la pièce teatrale sul concetto di volto del figlio di Dio, di Romeo Castellucci, nulla escluso. Vorrei aggiungere, per concludere, la risposta di Francesca Pardi, che è la scrittrice della storia poi illustrata da Altan, sulla questione appunto del libro Piccolo Uovo, per l'edizione Lo Stampatello. Qualche precisazione su Piccolo Uovo, visto che ne stanno uscendo di tutti i colori. Di Francesca Pardi. Innanzitutto non è un libretto, è un libro. Per l'esattezza, un albo illustrato per bambini. L'ho scritto pensando alle illustrazioni di Altan, al suo tratto inconfondibile che rappresenta un mondo in cui qualsiasi bambino italiano si può riconoscere. E partendo dal presupposto che i pregiudizi non sono innati, e i bambini sono spesso assai più liberi degli adulti, nello sguardo e nell'ascolto. Forse è questo che spaventa chi ha una mentalità profondamente normativa, che pensa che siano più importanti le regole di colore per cui sono state fatte. Forse è questo ciò di cui ha paura chi difende dei modelli rigidi costituiti sulle ideologie invece di partire dalla realtà, dalla sua bellezza, dalla sua varietà e dalla sua innocenza. Le realtà familiari di cui si parla ai bambini in questo libro sono tutte basate sull'amore, la cura e la responsabilità, compresa quella dei tradizionalisti coniglietti eterosessuali. Che cosa risponde come madre omosessuale, oltre che come editore, autrice, lei stessa, a chi pensa che fiabe come quelle di Altan per Lo Stampatello turbino i bambini? Perché i bambini dovrebbero leggere questo tipo di fiabe? Mi chiedevano in una piccola intervista su alfemminile.com. Rispondo che sono loro che mi sembrano piuttosto turbati, ma non ho visto turbamento in nessuno dei bambini che ha letto i nostri libri. Curiosità, interesse, anche noia. E gioia di leggere una storia, ma mai turbamento. Un bambino ha paura dell'abbandono, della morte, della violenza, non dell'omosessualità o di vivere in due case diverse. e dalle cose serie che vanno protetti i bambini, non dalle loro stesse famiglie. Non credo che i bambini dovrebbero leggere questi libri. Spero di venderne un sacco perché vorrebbe dire che ai bambini piace leggerli e ci trovano qualcosa di interessante, loro o i loro genitori. Invece forse i consiglieri comunali dovrebbero leggerli, se non altro, per sapere esattamente di cosa parlino. L'eco del silenzio. Silenzio. Anche per questa settimana siamo arrivati alla conclusione. Da Lucia Capparrucci un saluto e l'augurio di frenetiche e assolutamente libere letture, perché qualunque individuo deve poter nutrire la sua mente e la sua curiosità con ciò che ha scelto e preferisce. I contenuti di questa puntata sono disponibili all'indirizzo ecodelsilenzio.blogspot.com. L'eco del silenzio. Un'idea di Lucia Capparrucci.